E benvenuti, benvenuti ai nostri radioascoltatori per questa puntata speciale di Indie Radio, una puntata che ha voluto registrare le voci della strada durante la giornata del 6 maggio 2011. In questa giornata, lo ricordiamo, la CGIL ha indetto uno sciopero nazionale. Ma noi abbiamo voluto vedere che cosa effettivamente succedeva in questa piazza di Cosenza. Ebbene, la città era praticamente lontana, anni luce da quello che si stava registrando nella piazza. La giornata trascorreva normalmente fra lo shopping e soprattutto fra i vari banchetti delle campagne elettorali. Giunti nella piazza, ovvero in questo piccolo spazio chiuso, una strada chiusa di fronte alla sede della CGIL a Cosenza, abbiamo visto che effettivamente non vi era una grandissima partecipazione popolare. Certamente erano presenti alcune realtà in lotta, molti lavoratori, per esempio, del settore della sanità privata erano lì, così come anche altri lavoratori che vivono diverse vertenze. Tuttavia, siamo portati a credere che si trattasse esclusivamente di tesserati CGIL. Quindi non comprendiamo effettivamente il valore dell'aggettivo generale attribuito al sostantivo sciopero. Ad ogni modo, si sono registrate numerose assenze. Numerose assenze sono quelle dei giovani, degli studenti. Lo dicevamo, abbiamo visto soprattutto, persone abbastanza in là con gli anni, dobbiamo dirlo. Abbiamo anche visto certo dei precari che hanno parlato dal palco, anche affrontando tematiche certamente interessanti e importanti, ma è mancata veramente l'idea di generale, di sciopero generale. Non possiamo definirlo affatto tale. Ad ogni modo era presente anche un banchetto referendario per parlare dei referendum sull'acqua che ci chiameranno a decidere del nostro futuro. Ma, ripeto, nulla di generale. Dunque, siamo qui in piazza a Cosenza per questo sciopero generale indetto dalla CGIL. Ci sono con noi dei lavoratori della scuola e stiamo discutendo insieme di questi magnifici provvedimenti del governo che faccia per suoi dei posti di lavoro che avrebbero promulgato con un decreto proprio ieri. Ma in realtà, come dicevano i miei colleghi, perché anche io faccio parte di questo magico mondo, ricordavano che in realtà si trattava di posti congelati in precedenza che oggi vengono poi riliberati dal governo, ma in realtà erano posti che fisiologicamente era necessario avere nella scuola. Sentiamo i miei colleghi che cosa ci vogliono dire di questa giornata. Buongiorno. Come diceva la collega Maria, quel decreto legge parla sì di posti, di nuovi posti come dicono loro, però realmente è fisiologico perché ogni anno sono sempre stati immessi in ruolo 15-16 mila persone. Quest'anno il governo ci avrà detto che metteranno in ruolo 67 mila persone, ma realmente sono solo delle bufale, perché si pensa solo ed esclusivamente alla campagna elettorale che c'è in questo momento. E quindi i voti, io penso una cosa, che forse avrà sentito qualche cosa, qualche voce che quest'anno non ce la farà e speriamo che gli italiani capiscano, non votatelo. Ma questa giornata di oggi, questo sciopero generale della CGIL, qualche parere? Come è vissuto per esempio a Cosenza? Io guarda, in base a quello che vedo, molti colleghi non ci sono, o perché non l'hanno, non hanno saputo, oppure realmente non hanno voluto, oppure sono stati ricattati. Ad esempio, a scuola dove sono io, non c'era la circolare, c'erano circolari che dicevano dello sciopero del 12 e del 13 di maggio, quella del cinese di oggi non c'era, sono andato in segreteria e gliel'ho detto. Io firmo e non me ne frega niente, perché realmente io voglio partecipare. E come tanti altri miei colleghi che non l'hanno saputo e non ci sono. Mi hanno telefonato pure degli amici, ma io non ho potuto perché me l'hanno detto oggi, io dovevo firmare 2 giorni prima. Questo è il guaio. Speriamo comunque che ne arriveranno tanti. Qui siamo in tanti. ce la possiamo fare, lo stiamo insieme. Ma giornate del genere possono servire a risollevare, diciamo, le sorti della nostra società, soprattutto per quanto riguarda un affrancamento da questa precarietà che ci affligge? Penso che potremmo anche farcela, però questo dobbiamo essere in tutta Italia. E cerchiamo di dare una descrizione della presenza qui in questa piazza. Vediamo soprattutto molte bandiere del comitato referendario, quindi si parla molto di acqua pubblica. E evidentemente questa è una lotta che parte dal basso e quindi si può permettere di essere qui in piazza in maniera anche abbastanza massiccia. Molti striscioni non ne vediamo in realtà. Ripetiamo, la piazza cosiddetta, in realtà si tratta di un pezzo di strada chiuso, di fronte un giardinetto di Cosenza, non presenta molte altre presenze significative, quantomeno non sono palesate. Certamente la piazza si intervola quando vengono toccati temi come quello della scuola, proprio in questo momento si parlava del ministro Gelmini che, come tutti sanno, si è abilitata a Reggio Calabria. Si parla di grande solidarietà rispetto ai precari che hanno occupato una casa proprio in questo giorno e che in seguito andremo a visitare e a sentire quindi anche la loro voce. Non vediamo molti giovani, quasi nessuno. Le teste dei partecipanti sono bianche, molte, magari altre saranno tinte. Tante bandiere della CGIL, ma non vediamo studenti, o magari stanno proprio per arrivare. Noi siamo qui in attesa. Studenti medi non vi è l'ombra, forse non sapevano di questo sciopero, non sappiamo, o probabilmente la scelta di effettuare questo sciopero generale proprio in un periodo come questo ha inficiato la partecipazione di numerosi studenti. Le nostre piazze calabrese lo stanno dando al governatore Schiaparelli. Alzo al mattino con una nuova illusione, prendo il 109 per la rivoluzione e sono soddisfatto, un poco saggio, un poco matto, penso che fra 20 anni finiranno i miei affari, ma ci ripenso però, mi guardo intorno per un po' e mi accorgo che sono solo. Allora, siamo qui in piazza Cosenza per questo cosiddetto sciopero generale della CGIL. Abbiamo con noi Giovanni Peta che ci farà qualche considerazione su questa giornata. Giovanni, che ne dici di oggi? Ma io credo che la giornata si presenta abbastanza, come dire, di routine. Invece dovrebbe essere una giornata molto combattiva rispetto alle tante problematiche che sono in gioco. Pensiamo a quello che sta succedendo, per esempio è successo alla Bertone, pensiamo all'attacco che sta avvenendo da parte della Confindustria e pensiamo ai tanti problemi che ci sono qua in Calabria, dalle questioni ambientali ai questioni occupazionali, pensiamo per esempio che su 400 di un call center, mi diceva poco fa una lavoratrice, scioperano solo 4 persone perché sono ricattati e via di seguito. quindi c'è una serie di problematiche che richiedevano una partecipazione più massiccia e richiedevano una presenza più combattiva dei lavoratori. La presenza di questo banchetto per il referendum sull'acqua, che cosa rappresenta qui oggi in questa piazza, che dobbiamo dire abbastanza ridotta come presenza di numero? Noi soprattutto siamo presenti qua come coordinamento calabrese Acqua Pubblica Bruno Arcuri e ci hanno dato la possibilità di intervenire dal palco e dire quello che pensiamo rispetto ai referendum che partono in ritardo dovuto a operazioni che si stanno facendo a livello governativo e che intendiamo arrivare e radicarci in tutte quelle zone dove non siamo riusciti ad arrivare con la raccolta delle firme e intendiamo quindi portare a conoscenza di una serie di problematiche che riguardano l'acqua in generale a livello nazionale per quanto riguarda il decreto Ronchi, ma anche tutta una serie di problematiche che già ci sono nel territorio calabrese e che riguardano l'aumento delle tariffe che sono illegittime, oppure una serie di problematiche che stanno sorgendo su comuni come Vibo e altri della provincia di Cosenza dove l'acqua non è potabile oppure vanno a ridurre la portata d'erogazione dell'acqua, una serie di problematiche che già esistono anche se solo siamo di fronte alla Sorical che è una società mista pubblico-privato. Immaginiamo cosa possa succedere quando diventerà tutta privata. Mi dicono alla radio, stati calmo e stati buono, non essere scalmanato, stai tranquillo e fatti uomo, ma io con la mia guerra voglio andare ancora avanti. E costi quel che costi, la vincerò, non ci son santi. Anche se invece però mi guardo intorno ancora un po' e mi accorgo che sono solo. Ma in fondo è bella però la mia guerra e io ci sto. Cerco una donna che sia la meglio, che mi sorrida al mio risveglio e che sia bella come il sole d'agosto, intelligente si sa. Ma in fondo è bella però la mia donna e io ci sto. Comitato referendario per l'acqua, che cosa ci dice di questa giornata? Questa è una giornata importante, un'altra giornata di approvazione degli spazi di democrazia e dei nostri diritti. È per questo che il coordinamento calabrese Acqua Pubblica, il comitato referendario a livello nazionale, ha deciso di aderire alla mobilitazione della CGIL, perché crediamo c'è la straordinaria mobilitazione dal basso che ha permesso la raccolta di così tante firme per il referendum dell'acqua, così come l'ampia partecipazione alle mobilitazioni in difesa dell'istruzione, della ricerca, del lavoro, sia il segnale di un'importante capacità di resistenza e di proposta che si muove verso un'alternativa al modello sociale ed economico attuale. Ma secondo te la scelta di questo sciopero in maggio e non prima, come magari dicevano i ragazzi di Controverso poco fa, come si può leggere? Io vengo rispetto a un discorso di maturazione della scelta da parte di tutte le componenti della CGIL. Dichiarare, proclamare uno sciopero generale è impegnativo, è ancora più impegnativo in un periodo di crisi, perché per tanti lavoratori una giornata di sciopero significa 50, 100 euro in meno che possono essere la goccia che va a traboccare il vaso del bilancio familiare. Quindi io accentuerei soprattutto il fatto che questo sciopero sia stato. Sui tempi è chiaro, io personalmente avrei preferito che si fosse fatto immediatamente dopo il 15 ottobre, quando con la manifestazione della FIOM a Roma si è creata una grande tensione. Però anche questo è un grande risultato che non compromette nulla e che ci porta comunque verso una presa di consapevolezza maggiore che dovrà avere l'apice, non tanto nelle prossime elezioni amministrative, per cui si deve comunque dare, secondo me, un segnale, soprattutto nelle grandi città a questo governo, ma soprattutto le due giornate referendarie, il 12 e il 13 giugno, che sono delle giornate per l'acqua pubblica, per i nucleari, il referendum per il nucleare si terrà, non è vero che non si terrà, e anche in misura minore dal mio punto di vista, per il legittimo impedimento, ma c'è anche questo referendum, sono i giorni in cui ci torna un'appropriazione democratica, una riappropriazione dei beni comuni, una riappropriazione di ciò che ci rende comunità, e là sarà dato un segnale molto forte di cui la politica non potrà non tenere conto, e poi anche perché la politica siamo noi e dimostreremo di essere noi in quell'occasione. Ok, grazie. Momento sul palco un esponente di Ateneo Controverso, un movimento studentesco nato nell'Università della Calabria. Lo studente sta ricordando come nello scorso autunno si parlava e si chiedeva a gran voce da parte di tutto il movimento studentesco la necessità di uno sciopero generale forte. E quindi questo sciopero generale in questo momento quale valore può avere? Si chiede lo studente di Controverso. Uno sciopero adesso, uno sciopero generale indetto soltanto dalla CGIL, quale valore quindi può avere? Nel momento in cui gli studenti di tutta Italia chiedevano a gran voce uno sciopero generale generalizzato, non hanno avuto risposte. Adesso ci troviamo qui, in questa strada chiusa di Cosenza, dove si parla di sciopero generale. Ebbene, la presenza in piazza di studenti, la presenza in piazza di studenti medi e universitari, di lavoratori della scuola, di lavoratori del pubblico, di lavoratori precari, di lavoratori d'Italia è veramente bassa. Probabilmente se la richiesta degli studenti sarebbe stata accolta, avremmo avuto certamente una risposta maggiore. Oggi a maggio, scioperare oggi a maggio, non sappiamo quali. E ora ecco, Gianluca Grillo, uno studente di Ateneo Controverso, tragicamente scomparso un mese fa, viene salutato dalla piazza. E ora stiamo per concludere gli interventi, si dice, dalla piazza. Vediamo un po' che cosa succede. Si chiede alla piazza di essere compatta, in effetti molte persone stanno andando via. Vediamo che cosa succederà. Una comunità diversa, grazie a sentiamo gli applausi finali, quindi magari fra poco, se non ci sono altre cose eclatanti da registrare, ci recheremo presso lo stabile occupato dal Comitato per la Casa, che nella mattinata è stato qui presente in piazza con un'attività di volantinaggio. Quindi ci recheremo a piedi, dobbiamo dirlo. E ora si parla di questo spettacolo, ma sinceramente non ci interessa. La piazza intanto si sta svuotando, piazza, questa strada adiacente alla sede della CGIL si sta svuotando, forse il sole, forse la stanchezza di questo maggio si fanno sentire, quindi vediamo molti cartelloni che vengono in questo momento divelti da chi li aveva posti lì. Veramente molta gente sta andando via, quindi attendiamo di recarci presso lo stabile occupato, lo stabile Aterp ci dicono che è stato occupato, quindi la seconda occupazione di case in questo momento nella nostra città. Hai finito il tuo lavoro, hai tolto trucioli dalla scocca, è il tuo lavoro di catena che curva poco a poco la tua schiena. Neanche un minuto per ogni auto, la catena è assai veloce e il lavoro ti ha condotto a odiare la 128. Ma alla fine settimana il riposo ci fa bene. Noi andremo senza pensieri dagli amici a Moncalieri. E siamo qui in piazza Cosenza, ascoltiamo le voci del movimento. Ciao, salve a tutti, finalmente siamo qua in estremo ritardo sulle lotte sociali, in estremo ritardo sulle richieste da parte delle piazze, degli studenti, dei precari. Ricordiamo le fabbriche che stavano chiudendo, ricordiamo i cortei, i blocchi di quest'autunno e quest'inverno. La pavidità di questa CGIL ormai è del tutto manifesta, se c'erano dubbi dopo tutti gli accordi bidoni che hanno firmato anche in questi anni, ormai anche politicamente il volto è scoperto, hanno chiamato allo sciopero generale di poche ore, a distanza di pochi giorni dall'elezione. Ditemi voi se questo qui non è semplicemente una loro propaganda elettorale, di più buttata sulla faccia e sui bisogni della gente, è veramente un'offesa. Credo che ormai sono maturi i momenti e i tempi per poter ripartire da capo con la tua organizzazione sindacale dal basso, con la tua organizzazione sociale, di cooperative, di movimenti e situazioni che partino dal basso a ricostruire il proprio futuro, senza delegare politiche a nessuno. Questo è Wild Todos. Grazie.